tranquilla. Buonasera a tutti. Iniziamo con la presentazione. Vi do il benvenuto a nome dell'assessore Tomasini, nostro assessore alla cultura italiana, la biblioteca provinciale Claudio Augusta è un ufficio di questa ripartizione e da 15 anni organizza incontri con autori e autrici. Il suo focus principale sono gli autori e le autrici che raccontano il nostro territorio oppure appartengono a quel territorio, e questa biblioteca appunto ha raccolto un patrimonio ormai di 100.000 volumi che mette a disposizione del pubblico, ma quello che ci interessa sottolineare è proprio questo rituale dell'incontro con l'autore e con l'attrice che organizziamo ogni settimana, proprio per favorire la conoscenza reciproca e stimolare così la conoscenza e soprattutto la conoscenza della lettura, ecco, la voglia di leggere, la curiosità di leggere. Questo è lo scopo poi principale di una biblioteca: rendere vivo l'interesse per la lettura e per la conoscenza anche attraverso dei percorsi individuali, nella libertà, del gusto, dell'inclinazione individuale. Clan Baggio, che è qui con noi questa sera, è un autore appunto locale che però negli anni ha prodotto numerosi libri, testi, soprattutto appunto si occupa di narrativa, si muove nell'ambito della narrativa, e non è la prima volta che lo presentiamo, che abbiamo il piacere di presentarlo. L'abbiamo conosciuto ancora anni fa con il Fior d'Italia, no? Un giallo intrigante ambientato nella zona di Bolzano, Merano, ecco, insomma nella zona di Sette Querce, cioè, sì. Ecco, era abbastanza individuabile per alcuni aspetti, e poi ha continuato con soddisfazione, cimentandosi anche in altri canoni narrativi, e siamo arrivati a questa sera con questo nuovo libro Nel nome di Shamash, che volevo sottolineare è finalista al premio Pierzanti Mattarella di quest'anno, quindi un riconoscimento anche che va all'autore per quello che è stato il suo sviluppo, la sua evoluzione in questi anni nel saper raccontare, nel trovare dei nuovi così soggetti, delle nuove trame che sicuramente piaceranno anche al pubblico che questa sera è così numeroso. La biblioteca organizza appunto questi incontri anche con l'intenzione di far tornare le persone in via Mendola 5, dove è la nostra sede al momento, oppure di visitare il nostro sito che è www.bpd.claudioaugusta.it, un sito dove trovate anche una piattaforma multimediale per leggere e scaricare libri, leggere giornali in 90 e più lingue, e quindi offre dei servizi anche che possono essere utilizzati direttamente da casa o dal proprio smartphone. Noi ci ritroveremo poi la prossima settimana con altri appuntamenti. Se avete piacere potete vedere il nostro calendario oppure iscrivervi per ricevere i messaggi della biblioteca. Questa sera ci godiamo la presenza di Clan Baggio con il suo nuovo libro. Abbiamo con noi Rosanna Oliveri, che scrive per il Corriere dell'Alto Adige, è un'insegnante di Bolzano, si è laureata in filosofia e conosce il territorio anche lei molto bene, quindi conosce anche quella che è il mondo culturale e come ci stiamo muovendo anche nell'ambito della letteratura locale. Qui abbiamo anche due attori, abbiamo Pierpaolo Dalla Vecchia che leggerà alcune parti dalla voce maschile e poi Carmine Esposito che farà appunto la parte femminile. Io vi ringrazio della vostra partecipazione, ringrazio i nostri ospiti, vi auguro una piacevole serata e spero di rivedervi da noi in biblioteca. Grazie. Allora, buonasera a tutti. Volevo anch'io ringraziare Valeria Trevisan per aver scelto me per presentare questo libro, un libro che io ho subito accettato perché si tratta di un libro che ha avuto un grande riscontro di pubblico e dalla critica anche, tanto per capire un po' il riscontro di pubblico che ha avuto, per dire a metà ottobre quando hanno organizzato la settimana dello scrittore qui a Bolzano, il libro di Clan Baggio non era, vero, neanche in scaletta, però si sono affrettati a chiamarlo perché lo presentasse. Quindi, e il riscontro forse più grande è quello che ha detto prima Valeria, comunque essere finalista di un premio importante come il premio per Santi Mattarella. Ecco, il romanzo che presentiamo oggi è tra i 10 finalisti, quindi pensate 10 in tutta Italia, e verrà appunto presentato il 20 novembre, che è una domenica, prima in una sala bellissima del Campidoglio, la sala Protomolteca, è un nome difficilissimo, tanto bella quanto difficile da pronunciare. E la sera invece verrà presentato a Fiumicino, nella bellissima villa, anche qui di Guglielmi. E pensate, la finale, proprio la parte, la premiazione, avverrà addirittura alla Camera dei Deputati, quindi insomma premio importante in onore di Pier Santi Mattarella, fratello, conosciate tutti. Come ci si sente a essere finalisti di un premio così importante? Come ti senti? Va bene. Grande discorso. No, anche perché ho partecipato a molti concorsi e non c'è stato nessun riscontro. E questo premio invece mi hanno telefonato appunto verso metà ottobre dicendo che facevo parte dei finalisti. E mi sentite? Sì. E dicevo appunto che ho partecipato a diversi concorsi ma non ho avuto nessun riscontro, e questo qua invece mi hanno telefonato a metà ottobre dicendo appunto che facevo parte dei 10 finalisti, ed è un premio che è lievitato perché in realtà è appena la seconda edizione del premio Mattarella, che fu indetto la prima volta alla fine del 2014 per la prima edizione nel 2015, quando poi dopo successivamente, adesso non mi ricordo bene se a marzo o aprile, fu eletto presidente Sergio Mattarella, e il premio è in onore appunto del suo fratello Pier Santi, che fu ucciso dalla mafia negli anni Ottanta, e quindi hanno, diciamo, fra virgolette, pompato un pochino l'avvenimento adesso per la seconda edizione, tanto vero che la prima edizione fu premiata e fu fatta a Palermo, se non vado errato. Ecco, quindi sicuramente grande soddisfazione. Ecco, tu oltre a questo sei stato intervistato dalla radio, e questa intervista è stata trasmessa da 130 emittenti radio, quindi diciamo molte persone l'hanno sentita. Noi adesso la riproponiamo, l'ascoltiamo anche noi qui, dura 2 minuti e ce l'ascoltiamo. Okay. 2 minuti, un libro. Amici bentrovati, www.2minutiunlibro.it. Oggi incontriamo Clambaggio perché ha scritto un nuovo libro, uno psicotriller. Benvenuto. Grazie a voi. Clambaggio, come è venuta l'idea del suo quarto romanzo? E perché questo titolo, Nel nome di Shamash, uomo per bene e uomo per male? Ma l'idea l'ha covato da tempo. Si tratta dell'accusa infondata in cui parte di una donna che accusa il suo ex marito di abusare sessualmente della figlioletta che lui adora. Lo fa passare le amiche per rovinarlo. Rovinato nella sua esistenza, il protagonista dopo anni si vendica uccidendo tutti coloro che hanno contribuito a distruggere la sua vita. Quindi assistenti sociali, psicologi, magistrati e via dicendo. Il nome Shamash, Shamash è il nome del dio assiro-babilonese della giustizia, cui si ispira l'assassino che accompagna ogni omicidio con un bigliettino con la scritta Nel nome di Shamash. In questo romanzo, come in quelli precedenti, lei affronta il tema del cambiamento repentino, inaspettato, a volte assurdo, della vita del protagonista, che determina dei racconti di natura esistenziale. Sì, nei miei romanzi si ripete il tema dello stravolgimento dello scenario della vita di una persona che all'improvviso, per un fatto inaspettato, si trova catapultata in una realtà, in un scenario incredibile e impensabile. Nel mio terzo romanzo, Ma è così da lunga una vita, il protagonista in piena notte si sveglia sotto delle macerie a causa di un terremoto notturno. Una cosa che nessuno di noi si aspetta quando va a dormire, ma che purtroppo sappiamo sempre la verificata. In Shamash, invece, la vita di un normale e onesto cittadino viene all'improvviso sconvolta dalla più tremenda delle accuse, quella di pedofilia sulla propria figlia. In Shamash affronta diversi temi. Quello centrale della vendetta, il sistema Italia che va verso la rovina, la lentezza della giustizia, l'incompetenza dei professionisti. E parla anche di Nietzsche, di Oriana Fallaci, della Repubblica di Weimar e di Hitler. Sì, ma Clavaggio, grazie per essere stato con noi. Grazie a voi e a tutti quelli che ci ascoltano. Ricordiamo che il romanzo è reperibile anche nelle librerie online. Nel nome di Shamash, di Clavaggio, edizioni del Faro, www.clavaggio.it. Ecco, Claudio, come nasce l'idea di questo romanzo? Come ti è venuta l'idea? Ma come ho già detto appunto in questa breve intervista, sostanzialmente leggendo le cronache, soprattutto quelle locali, si assiste spesso, abbastanza spesso, a fenomeni di questo genere, per cui, e parlo qua a nome degli uomini, diciamo così, per cui quando un uomo per il divorzio, per la separazione, deve lasciare la casa, spesso accade, o comunque accade, che venga appunto accusato di nefandezze più o meno sostenute per allontanare i figli e per rovinarlo sostanzialmente, cioè è la faccia della medaglia. Ecco, io ho letto il romanzo naturalmente e mi ha colpito, la cosa che mi è piaciuta di più è questo intreccio di tanti temi, però il tema principale che emerge è quello della giustizia. E a questo proposito abbiamo scelto un testo che vi facciamo ascoltare, che reciteranno i nostri due attori Carmen e Paolo, che sapranno far vivere il romanzo, ed è praticamente il dialogo tra il commissario Castellano, che conduce sì, che sta conducendo le indagini del caso, e la giudice Ferron, che a un certo punto insomma rischia di cadere nel mirino di questo serial killer. Quindi abbiamo questo dialogo. Ecco, vuoi dire una cosa prima, ecco, che cominciano i nostri narratori? Cioè, le voci narranti adesso non leggono esattamente gli estratti del romanzo. Sul suggerimento di Carmen si è deciso, ha fatto un bel lavoro di taglia e cuci, di parlare soprattutto dei dialoghi, perché sono quelli che piacciono, non tanto le descrizioni. E quindi ha fatto una specie di pièce teatrale, diciamo in forma di prosa, e per cui anche perché molti miei romanzi, diciamo così, sono molto impagnati sui dialoghi, sui confronti, sui contraddittori tra più coprotagonisti, e quindi in questo contesto anche in questo romanzo ci sono diversi coprotagonisti che dialogano tra di loro. Prego. Precisazione della precisazione, sono stati selezionati quei brani che erano più centrali rispetto alle tematiche di cui si voleva parlare, su cui si voleva fare un accento. Bene, sono tutti. Certo. Lei dunque crede che questo assassino possa tentare di uccidermi? Sì, giudice. Secondo me la minaccia è reale. Non la prenderei sotto gamba. E secondo lei dovrei circondarmi di gorilla, di bodyguard? È sufficiente la scorta di due guardie, giudice. Non se ne parla nemmeno. Non sono abituata ad avere intorno a me gente che mi osserva, mi segue. Ritengo la sua valutazione semplicemente allarmistica. Sono solo un magistrato di una piccola provincia. Ho sempre lavorato al Tribunale dei Minori. Non sono un magistrato che si occupa di malavita, di mafia, di camorra. È risibile pensare che questo... Romani, che questo Romani possa tentare di assassinarmi. Noi abbiamo applicato la legge, caro commissario. In casi come questi, se vi è dubbio di pregiudizio, prevale la tutela del minore, non quella del genitore. Lei questo lo sa, vero? Sì, ma gli atti erano davvero deboli. Sa lei, li ha letti? Sì. Ah, anch'io me li sono riletti. E ho la ferma convinzione che c'erano tutti i presupposti per emanare questo decreto. Lei si è mai posto la domanda di cosa significhi emettere una sentenza? In che senso, giudice? Nel senso che noi giudici siamo investiti di una enorme responsabilità, orgoglioso, certo, di esercitare la più alta funzione sociale in un ordinamento democratico, quella di giudicare, e frustrate al tempo stesso che la nostra azione si debba limitare alla corretta applicazione delle leggi, pur sapendo che spesso il rispetto di queste leggi produce vistose ingiustizie sostanziali. Perché, vedete, commissario, qualunque sia la nostra sentenza, sfavorisce sempre una delle due parti contendenti. Si loda il giudice che ti dà ragione, si disprezza quello che ti condanna. Una storia vecchia come il mondo. Lei segue il calcio? Abbastanza. Allora mi passi il confronto con un arbitro di calcio, anche se lo so benissimo che da un punto di vista giuridico c'è una grande differenza tra arbitro e giudice. Saprà che quando perde la sua squadra, il tifoso addossa sempre la colpa della disfatta all'arbitro. Se fischia a favore è un grande arbitro imparziale, se invece fischia a sfavore è un cornuto, un arbitro venduto. Siamo anche noi arbitri, ma di un gioco molto più importante di quello del calcio a un pallone. Noi arbitriamo le sorti, le vicende, a volte anche i destini delle persone. Ne siamo ben consci. Siamo oberati da un enorme lavoro che dobbiamo svolgere per tamponare le manchevolezze e le carenze di leggi precise. Ormai i giudici, lo vede, devono occuparsi di tutti, di tutto. Nel nostro ordinamento giuridico abbiamo un ginepraio di disposizioni suddiviso in sezioni, paragrafi, codici, commi, articoli, lettere, per non parlare delle leggi complementari, di altre norme o discipline o della semplice osservazione di sentenze passate in Cassazione. Ecco allora che abbiamo i magistrati civili, penali, speciali, amministrativi, i giudici per le indagini preliminari, quelli per le udienze preliminari, quelli della Corte Costituzionale, i pubblici ministeri, i giudici di pace, i magistrati militari, amministrativi e tributari, e meno male che ultimamente hanno tolto quelli sportivi, che non sono più magistrati dello Stato. Di tutto ci dobbiamo occupare, di tutto. Siamo arrivati al punto di doverci esprimere anche su materie riguardanti la salute. E la ricerca si rende conto. E poi ci si chiede perché la macchina della giustizia è lenta, è ingolfata. Tutti sanno che lo è, ma ne ignorano la causa. Da quanti anni non diciamo che l'organico dei magistrati va rimpolpato, che non ce la facciamo più a star dietro a milioni di cause? Sono la prima a sostenere che è un delirio il fatto che quando un giudice viene sostituito perché è malato, trasferito in maternità, come è successo a una mia collega, la causa in corso deve riprendere dall'inizio con un altro giudice, se la difesa, come peraltro sempre fa, lo richiede. La legge glielo permette e ciò determina un'enorme perdita di tempo e di denaro e il pericolo della prescrizione. Ingorghi pazzeschi, rischi di prescrizione, carenze di personale amministrativo e di giudici. Milioni di cause pendenti. Milioni, capisce? Ed è forse colpa nostra? No, che non lo è. Ci facciamo carico di un lavoro immenso, in condizioni di precarietà assolute. Lei non lo immagina nemmeno. A volte sborso di tasca mia i soldi per la cancelleria comune, come la carta, con le penne. Succede perfino che manchi la carta igienica, in bagno. E mi vergogno di dirlo. Ma è una verità che tutti ignorano. Operiamo in condizioni da terzo mondo, caro commissario. Ciò è sicuramente vergognoso. Chi lo dice? E nonostante ciò, lo sa che in Europa siamo al secondo posto per la soluzione di cause perdenti? Perché fa quella faccia, commissario? Non creda a quello che le dico? Francamente, mi pare... Mi pare strano, lo so, mi pare strano. Si informi, ispettore. Nel solo 2013 abbiamo portato a termine più di 4 milioni di cause. 4 milioni. Solo che nel frattempo se ne sono giunte altrettante. Per un anno intero non dovrebbero esserci nuove cause e allora forse finalmente avremmo smaltito quelle pregresse. Purtroppo viviamo in una nazione di gente litigiosa, pronta a ricorrere alla giustizia per ogni quisquiglia, grazie a questa selva incredibile di leggi farraginose e a 250.000 avvocati, un vero esercito, di gran lunga il più numeroso in Europa, che pur di esercitare il loro lavoro accettano cause perse in partenza, favorendo così l'inceppamento della macchina giudiziaria. E poi c'è il discorso dei tre gradi di giudizio, fino alla sentenza definitiva, una prerogativa quasi esclusivamente italiana. Io sono assolutamente contraria e se ne avessi il potere adotterei subito il sistema francese o britannico. Comunque mi rendo ben conto, commissario, che per riformare il nostro complesso sistema giudiziario, per disboscare questa giungla, occorrerebbe un'analisi talmente profonda da perderci la sinderesi. Ecco, grazie della lettura. Abbiamo visto. Ecco, bravissimi. Abbiamo visto una leggera critica, insomma neanche tanto leggera, al sistema giudiziario italiano, però poi dice è il secondo, noi siamo al secondo posto per la soluzione di cause pendenti. Allora la giustizia italiana è lenta ma funziona, sarebbe meglio velocizzarla, tu cosa ne pensi? Beh, la giustizia italiana è lenta, ovviamente lo sanno più o meno tutti. Il discorso è che giusto un mese fa, se vi ricordate, ci fu una minaccia di sciopero da parte dei magistrati perché gli amministrativi non c'è abbastanza personale amministrativo. Gli stessi magistrati sono anche sottodotati come diciamo presenza. I problemi sono tanti, in parte già elencati, cioè il fatto dei tre gradi di giudizio, il fatto che sia civilmente che penalmente è molto facile fare delle denunce e ricorrere agli avvocati, aprire una causa senza che poi dopo chi ha sbagliato debba pagare, perché questo è anche il discorso, no? Lo vediamo anche nei casi, ad esempio, dell'ingiuria o della diffamazione o della calunnia, che gli ultimi due penalmente perseguibili spesso si dissolvono in nulla, ma nel frattempo passano mesi, passano anni, con un carico, un sovraccarico per i magistrati, per le aule dei tribunali. E poi dopo tutto si dissolve, no? Ecco, a un certo punto la giudice, abbiamo sentito, dice però qualsiasi giudizio, qualsiasi sentenza, c'è sempre qualcuno che è scontento. Allora, che cos'è la giustizia, secondo te? Termine, la giustizia, non la giustizia nel termine amministrativo giudiziario, ma nel termine più alto, quello più filosofico, diciamo. Beh, in questo caso saresti tu deputata a parlare, visto che sei professoressa di filosofia, insomma io non ho questi studi filosofici, ovviamente. Cioè, è vero che qui è stato affrontato il discorso da un punto di vista pragmatico e tecnico. Poi ho qua un libricino, è il romanzo Il contesto di Sciascia, che l'ha pubblicato nel 1971, dove affronta il problema della giustizia e della infallibilità dei giudici da un punto di vista filosofico, quasi teologico, parlando della transustamazione, però non voglio adesso tediarvi perché insomma è una cosa un pochino lunga. Diciamo che i problemi li conosciamo tutti e soprattutto io penso che da un punto di vista amministrativo il meccanismo della giustizia sia molto lento e farraginoso. Ho capito. Ecco, a questo proposito possiamo continuare il secondo brano che continua questo dialogo tra la giudice e il commissario. Noi magistrati siamo coscienti dello scollamento tra giustizia e ordinamento giuridico. Lo sappiamo tutti. È da tempo immemorabile che invochiamo una giusta riforma del sistema giudiziario, che è ineludibile. Non si può andare avanti così. Siamo allo stremo. Questa è la verità, caro commissario. Ci facciamo carico di queste incombenze, ci sacrifichiamo, perché oltre a essere i custodi della legalità, oramai siamo diventati il presidio, l'ultimo baluardo contro l'imbarbarimento della nostra società. E invece di renderci omaggio per la nostra abnegazione, i servitori fedeli e ligi allo Stato non fanno che attaccarci, che delegittimarci. D'altronde, cosa ci si può aspettare dopo 20 anni di campagne denigratorie contro la magistratura? Ora addirittura pare che vogliano introdurre la legge sulla responsabilità civile dei magistrati. Un abominio. Un abominio, è cos'altro. Se si introduce questa legge, di fatto si paralizzerà l'azione della magistratura. Una legge intimidatoria che minerà l'indipendenza e la serenità dei magistrati, che scatenerà una valanga di ricorsi strumentali volti a prolungare i processi, ad affossarli. Chi si meraviglierà se un giudice in futuro eviterà di firmare una condanna per il timore di dover pagare di tasca propria i danni di una sentenza che potrebbe rivelarsi sbagliata? È un po' difficile per un giudice pronunciarsi in nome del popolo italiano, se poi è a pagare è lui stesso, non crede? Signora giudice, mi permetto di osservare che la legge attesa si ispira alla massima del chi rompe paga. Chi rompe paga? Anche lei si adegua a questi slogan populistici? Forse che la nostra azione va parametrata a quella di un idraulico o di un dentista? Lei mi delude, commissario Castellani. E chi controlla i giudici? Quis custodiat ipsos custodes. Chi controlla i controllori? Ma di questo passo la spirale diventa infinita. Lei dovrebbe sapere come funzionano gli organi di autocontrollo della magistratura, caro commissario. E le posso assicurare che il CSM è vigile, è assai severo con chi sgarra. Sa qual è la verità, commissario? La verità è che nel nostro paese l'unica istituzione che combatte la corruzione dilagante siamo noi. Ha presente tutte le indagini che abbiamo fatto contro la politica in Sicilia, a Roma, in Veneto, Lombardia, Puglia, Napoli, e gli ultimi grandi scandali, Mose, Regione Lazio, Expo, Carige, Monte dei Paschi di Siena, chi li ha scoperchiati? Noi? Chi erano coinvolti? larghi strati della politica. E di tutti i colori, nessuno escluso. Sanno tutti che molti politici sono ammanicati e coinvolti con il malaffare, spesso criminoso. Il Parlamento pullula di condannati, di imputati e di inquisiti. Fosse un paese serio, il nostro Parlamento si svuoterebbe per trasferirsi a Regina Coeli. Hai capito ora perché parlo di intimidazione? Altro che riequilibrio dei rapporti tra politica e magistratura. Caro commissario. Beh, qua non le posso dar certamente torto. Cercano di delegittimarci in tutti i modi. Ci massacrano. Ultimamente nel vero senso della parola. Siamo diventati un bersaglio fin troppo facile. Si dimentica troppo facilmente l'alto e lungo tributo di sangue che noi magistrati abbiamo pagato nell'esercizio delle nostre funzioni, per il nostro lavoro. Ci mancava solo questo pazzo furioso, questo Romani, con il suo delirante messaggio per eccitare gli animi e creare un humus pericoloso, ancora più ostile nei nostri confronti. Altro che casta! Non fosse per noi e per il nostro lavoro, questo paese sarebbe già alla deriva. Questa è la realtà, l'assoluta verità, commissario. Assoluta verità. Realtà. Grazie. Ecco, abbiamo scelto questo testo perché parla appunto di questa responsabilità del giudice che hanno adesso inserito per legge e di questo continuo dibattito che c'è in Italia tra politica e magistratura. E abbiamo sempre l'accusa delle toghe rosse, poi non sono più rosse ma sono anzi contro i rossi, ma non si sa. Poi ecco, nel libro vengono citati alcuni scandali che tutti conosciamo, ce ne sono aggiunti di altri, ne abbiamo anche qui di nostri, non so, tutti noi sappiamo lo scandalo Selle, ne abbiamo un po' dappertutto, no? Ne abbiamo tanti, cioè non ci facciamo mancare niente. Ecco, come la vedi tu questo rapporto tra magistratura, politica? È giusta la responsabilità del giudice? Qui chiaramente sì, sono io che scrivo, ma non sono io che la penso così, perché come ho detto anche nell'intervista, sono i miei personaggi che parlano. Quindi in questi contraddittori ci sono spesso delle riflessioni da una parte e dall'altra. E quindi qui abbiamo le riflessioni della giudice, che parla ovviamente a favore dei magistrati, e poi abbiamo invece anche il contraddittorio del commissario Castellani, che invece la pensa un po' in modo diverso. Come al solito le cose stanno un po' a metà del guado. È vero che in passato, lo sappiamo benissimo, c'è stato anche forse da un punto di vista legislativo uno strapotere dei giudici. È anche vero però che questa nuova legge potrebbe inficiare la serenità di giudizio di un giudice nel momento della condanna. E quindi, francamente, io credo che sia la più alta funzione nell'ordinamento democratico di uno Stato quella di un giudice, e non è semplice. Quindi porterebbe un'ulteriore perdita di tempo, oltre ai 3 gradi di giudizio, il giudice che è troppo cauto? Sì, potrebbe anche portare soprattutto a delle contestazioni in materia, no? Cioè, già sappiamo che la Cassazione, che viene visto come 3° grado di giudizio, in realtà non lo è proprio, perché è stata almeno inizialmente pensata come funzione di controllo, che tutte le procedure fossero state dettagliatamente e rigorosamente rispettate sia in primo giudizio che in secondo giudizio. Ultimamente invece la Cassazione ha un pochino travalicato la sua funzione iniziale, e quindi comunque sostanzialmente spesso accade che dopo il primo giudizio, il secondo giudizio, si va in Cassazione, la Cassazione rimanda tutto al primo giudizio, e quindi passano spesso anche 8, 10, 12 anni, sono di più, per le cause civili, ma non solo per quelle civili, anche per quelle penali, che poi dopo hanno il pericolo della prescrizione, insomma. Poi c'è il ricorso facile, c'è il ricorso per tutto. Certo, c'è il ricorso per tutto. Tutti possono fare ricorso e anche, come si diceva prima, il discorso che ognuno può denunciare, ognuno può accusare, eccetera, cioè ci si va dall'avvocato, io non ce l'ho contro gli avvocati, c'è qualche avvocato qua in sala, non ce l'ho contro gli avvocati, però è vero che in Italia ci sono 250.000 avvocati, quando tra Francia e Germania sono 210.000 messi insieme. Va bene, adesso per cambiare un po' discorso, siccome come ho detto prima nel romanzo si intrecciano vari temi, e come ho detto a me interessano anche quelli, soprattutto quelli filosofici, visto che insegno filosofia, e abbiamo trovato un brano che parla appunto della libertà, cioè quasi il tema filosofico per eccellenza insieme a qualche altro, tempo, la libertà, sempre quelli, insomma. Allora lo ascoltiamo e poi ne parliamo. Scusate un attimo, allora in questo caso bisogna anche dire chi parla. In questo caso io interpreto il commissario e Pierpaolo interpreta Valmiro. Valmironi. Ci siamo scambiate le parti. Arrivato al parco, il commissario trovò il Valmiroli, che stava stravaccato su una panchina e assorto a leggere una rivista pornografica. Come lo vide, capì che era una pista falsa. Era un uomo piccolo, pelato, gracile, con un mento appuntito, reso ancora più affilato da un pizzetto incorto. A prima vista dava l'idea di essere poco incline alla igiene personale. Come va? Come vuole che vada? Va come sempre. Cioè? Si sta qui. Vedo che lei è occupato. Ma siccome sono venuto apposta fin qui per farle alcune domande, mi dispiace doverla disturbare. Mi dica cosa vuole. Spero non duri a lungo. Avrei da fare. E che cosa precisamente? Diverse cose. Capisco. Niente lavoro? Lavoro? E chi lo dà il lavoro a uno che ha 52 anni, qui in Italia? A me poi, che sono un pregiudicato. Il lavoro non lo trovano neanche i giovani. Che mi sforzo a cercare un lavoro che non ce n'è. E dell'omicidio del magistrato cosa ne pensa? Niente. Niente? Davvero niente? No. Non la sorprende? Perché dovrebbe sorprendermi? Cosa vuole che penso? Non mi frega. E lei non si è mai spostato negli ultimi tempi? No, sto sempre qui. Lei si sente vittima? Di cosa, scusi? Della giustizia, del sistema. Guardi, io sono sempre stato sfortunato nella mia vita, commissario. Non me ne è andata mai bene una. Cosa c'entra il sistema? È stato condannato a 3 anni di galera. Le hanno tolto la libertà. Ma guardi, in galera non stavo poi così male, sa? Vitto alloggio assicurato. Si giocava a carte, a pallone. Mi hanno pure fatto degli amici. La libertà mi hanno tolto, lei dice. Ma quale libertà? Cosa significa in fondo essere liberi? Cosa significa in fondo essere liberi? Grazie. Ecco, qui abbiamo questo dialogo tra questo Valmiroli, che è uno dei primi sospettati di essere questo serial killer. Per quale motivo non ve lo dico, perché lo leggerete nel libro, se no anticipiamo tutto, non c'è gusto. Ecco. E però questo, avete visto, è un uomo che è privato della libertà e poi quando è libero che cosa fa? Più o meno la stessa cosa, no? Sta lì seduto, anzi quasi... sembra dire tra le righe stavo meglio prima, no? Lì almeno avevo degli amici. Quindi io ti giro la domanda che poni tu nel libro: cosa significa in fondo essere liberi? Già, cosa significa in fondo essere liberi? Esiste poi la libertà? Io penso che la libertà assoluta non esista, perché ogni azione, ogni pensiero, ogni, diciamo, sì, ogni azione comunque è condizionata consciamente e inconsciamente. Nel momento in cui io sono libero di fare qualcosa, di dire qualcosa, so che può avere delle conseguenze. Allora, se ad esempio sono libero di far andare la musica nel mio appartamento alle 3 del mattino ad alto volume, questo non va bene, perché chiaramente la mia libertà di farlo collide con la libertà degli altri e del sonno degli altri. Se io decido di non fare un dono a un mio amico per il suo compleanno, posso non farlo ovviamente, ma probabilmente rischio il fatto che lui non mi saluterà più, non mi considererà più amico, se prima lo faceva sempre. Se mi trovo di fronte a una persona, un ex pugile, un uomo grosso, eccetera, che mi dice: questo pacco non lo devi toccare perché sennò ti do un pugno, io sono libero di farlo, però so che rischio di pigliarmi un bel pugno in testa. Cioè, è questo il discorso. Siamo liberi di fare tante cose, però siamo condizionati dal fatto che le azioni e le nostre parole, le nostre azioni portano a delle conseguenze. Senza poi dopo dimenticare che la libertà in assoluto, come diceva anche Sartre, siamo condannati alle libertà. La libertà in assoluto in realtà non esiste, anche perché siamo condizionati da tanti fattori che neanche conosciamo. Questo è il mio pensiero. La condanna di scegliere di Sartre. Bene, tu conosci, vero, il giornalista Luca Liguori? Come no, è un amico, sono onorato della sua amicizia, l'ho conosciuto tramite una mia zia a Roma e mi ha fatto delle belle recensioni, tra cui anche l'ultimo romanzo. Sì, esatto, una recensione, è stato inviato per la RAI, insomma, un personaggio importante. Ecco qua, posso dire una cosa? Questo è Whisky dopo il tramonto, è il libro che ha scritto Luca Liguori, l'ha presentato qua a Bolzano, alla Stanza, Centro Culturale La Stanza, e ve lo posso veramente, vi posso garantire, è un libro bellissimo, perché in pratica è la cronaca della sua vita come inviato speciale, che ha conosciuto i personaggi più famosi al mondo, e ci sono anche degli aneddoti molto, ma molto divertenti e molto belli. Ve lo consiglio. Ecco, noi a proposito di Luca Liguori abbiamo preparato un video su di lui. accensione di cuore. E passiamo, c'è cioè un altro tema, ecco, appunto, molto sensibile ultimamente, se ne sente sempre parlare. Ecco, io anche come giornalista, come donna, ne sento sempre parlare, quella della rappresentazione e rappresentanza di genere, le donne nella società e anche il risvolto linguistico, come si dice, come si dice direttore e direttrice, fino a qua tutti d'accordo, però a un certo punto quando il direttore è il direttore di una, non so, di Rai 3, allora lì direttrice rimane direttore donna, ci sono queste cose, il ministro ha partorito, si leggono queste cose, insomma. Io sul giornale uso sempre il femminile perché se si parla di una donna, perché ritengo che bisogna riconoscere alle donne, a noi donne, il nostro ruolo nella società, e non esiste il neutro in italiano. Quindi, cioè, così come io sono un insegnante con l'apostrofo, una giornalista e non un giornalista, la ministra è una ministra e non è un ministro, se partorisce poi. Non so. Ecco, a questo proposito, però, ecco, sappiamo che i maschietti hanno sempre un po', anche tante donne, un po' di resistenza su questi termini. Ecco, sentiamo, ascoltate un po' che brano è inserito nel romanzo. Come al solito, una precisazione: in questi casi ci siamo scambiati di nuovo i panni, io continuo a fare il commissario e Pierpaolo invece è il signor Manni. Mi tolgo una curiosità: come mai dopo essere stato condannato in primo grado lei non è ricorso in appello? Che bella domanda, commissario, bella e banale, visto che me la fanno tutti. Ma lei le lette vero le carte del processo? Certo. Ebbene, allora conosce i fatti. Non c'era alcun motivo per ricorrere in appello, o forse dovrei dire nessuna speranza. La mia parola contro quella della mia ex moglie, ma si figuri, la povera donna che viene aggredita dal marito geloso. In un periodo come questo, dove non c'è giorno che alla televisione non diano un dibattito sulla violenza sulle donne, dove quasi ogni giorno un uomo ammazza la propria donna, tanto da aver coniato addirittura il nuovo termine femminicidio, un termine assurdo, cacofonico, cialtrone. Ma che chance vuole possa avere un uomo contro la denuncia di una donna? Nessuna. Scusi, ma sul femminicidio non sono d'accordo. Il termine poi non mi risulta essere nuovo. Può darsi. Di solito è strampalato, come tanti altri neologismi, nel tentativo patetico e cretino di parificare il sesso a livello linguistico. La direttora, la capa, l'avvocata. Ad esempio, parlando di ranghi, esiste il termine generala? No, non mi risulta. Eppure sono convinto che ci siano anche generali donne. O sbaglio? Penso di sì. Ecco, vede, deve sapere che io mi interesso di etimologia e questi, chiamiamoli così, neologismi sessualizzati, li ritengo delle vere e proprie nefandezze linguistiche. Ogni volta che sento una parola del genere mi sanguinano le orecchie. Allora, oltre a femminicidio, dovremmo dire maschicidio, bambinicidio e altre menate del genere. Perfino il termine padrona è una stonatura, se ci pensa. Dovrebbe essere sostituito da madrona, non crede? Madrona? È vero. Nel mondo animale, poi, ci sarebbe da divertirsi. L'uccella, la cammella, la struzza, la rinoceronta, la serpenta. E tutto questo in nome di un'ipotetica rivendicazione di parità delle donne, del gentil sesso nei confronti degli uomini. Che assurdità! Ma perché, scusi, signor Manni, lei è convinto che ci sia la parità tra uomo e donna? Ah, certo, perché lei no? Ormai le donne sono dappertutto, si stanno prendendo il potere. Decine di primi ministri e di presidenti di altrettanti stati nel mondo sono donne, dal Brasile alla Repubblica Centroafricana, dalla Liberia all'Argentina, dalla Costa Rica al Cile, dalla Lettonia alla Corea del Sud. Perfino la portavoce di Hamas è una donna. Lo sapeva? No, questa proprio non la sapeva. Si chiama Isra al-Mudallah. E mi dica, chi è il politico più influente in Europa? È una donna. Si chiama Angela Merkel. Chi governa la Federal Reserve americana? Chi è il direttore del Fondo Monetario Internazionale? Chi è il direttore generale dell'UNESCO? Il direttore del CER? Chi è la guida dell'OPEC? Sono tutte donne. Sono loro che hanno il potere. Le è forse sfuggito? Ma comunque non certamente da noi in Italia. Ah no? Metà dei ministri dell'attuale governo è femminile. La presidente della Camera è donna. Due segretari nazionali su tre dei maggiori sindacati sono donne. L'incidenza femminile nella pubblica amministrazione ha superato il 53%. Nella magistratura ora sfiora il 40%. Vero che a livello dirigenziale i livelli sono più bassi, ma le ricordo che i presidenti e gli amministratori, le presidenti e le amministratrici delle aziende italiane più importanti in Italia, quelle che rivestono importanza strategica, sono tutte donne. RAI, Enel, Eni, Poste Italiane, Finiers, Mondadori, Gruppo Espresso, Parmalat, Prada e chissà quante altre che non conosco. Che ne dice? Ah già, dimenticavo. E il prossimo presidente americano? Vuol scommettere che sarà una donna? Sì, so che se ne parla. Lei allude a Hillary Clinton. Hillary Clinton, certo. Può bastare? Ecco perché a una gentile signora che mi rammenta la disparità tra uomo e donna rispondo che accetto la superiorità femminile, purché la si pianti di parlare di parità di genere. Ritornando al suo caso, ci fu la gelosia però. Ma quale gelosia? La sua vorrà dire, non la mia. Non sono mai stato geloso di una donna. Pensi, dalle mie parti mi chiamavano il Casanova di Nibbiola. Chi era pure in giro? Però la signora fu colpita gravemente alla testa da un corpo contundente. La signora cadde su un corpo contundente, vorrà dire. Ma scusi, lei non mi ha detto che aveva letto le carte del processo? Sì, certo. E allora di cosa stiamo parlando? Conosce la mia versione, solo che hanno dato credito alla versione di quella zoccola, che Dio la stramaledica per l'eternità, non alla mia. Era stata lei che mi aveva aggredito a calci e pugni in un attacco isterico di gelosia. Ed io, nel tentativo di difendermi, le ho sferrato un mal rovescio che l'ha mandata al tappeto. Purtroppo, cadendo, è andata a sbattere con la testa sullo spigolo del tavolino e si è seriamente ferita. Ma la sua versione fu ben diversa, lei la conosce. Poi lei sa come sono le donne, no? Mirabili teatranti, abili, mirabili e miserabili attrici, piangono a comando. Io solo sa come fanno. Caro commissario, adesso le dico una cosa incredibile che la farà riflettere. Sa cosa mi ha detto il mio avvocato? Il suo avvocato? Sì. Ma sentiamo. Mi ha detto che lui, quando va da qualche parte con l'ascensore, non entra mai insieme a una donna sola e sconosciuta. Se questa si graffia, si arruffa i capelli, si strappa la camicetta ed esce dall'ascensore urlando disperata di essere stata aggredita, cosa pensa che gli succede a quel malcapitato povero Cristo? Il minimo che gli succede è una denuncia per tentata violenza sessuale. E se tutto va bene, cioè seppure viene assolto, intanto deve spendere un sacco di soldi per un avvocato penalista, un sacco di tempo e di nervi per seguire la questione. E non parliamo poi delle complicazioni a livello personale, con moglie, parenti, amici, colleghi di lavoro, eccetera. E sa perché me l'ha detto il mio avvocato? Già, perché? Perché questo fatto era realmente accaduto e ne era rimasto vittima suo fratello in un ascensore in un albergo a Riccione. Pensi lei. Ha capito a che punto siamo arrivati e perché non ho fatto appello? Di genere e anche l'uso del linguaggio al femminile, potere delle donne, tu cosa Ne pensi? Hanno parlato i miei attori, cioè sostanzialmente penso quello che è stato scritto. Quindi secondo te le donne hanno più potere quasi degli uomini? No, non dico quello, però ad esempio la questione delle quote rosa, io la vedo come una forma di discriminazione nei confronti delle femmine, cioè delle donne, perché non si capisce per quale motivo, cioè le quote di, diciamo, salvaguardia vanno bene per una minoranza, come anche da noi siamo una minoranza linguistica con i nostri 515.000 abitanti su 59 milioni di italiani, ma non si capisce per quale motivo ci debbano essere delle quote rosa anche in campo politico, francamente, quando la maggioranza comunque è femminile. E poi dopo se uno è valida, comunque l'abbiamo visto con la Merkel e con tante altre donne, si qualifica da sola, non è che ha bisogno delle quote rosa per potersi sviluppare anche politicamente. Io la vedo così, poi. Sì, rimane il fatto che a fronte di alcuni esempi sotto gli occhi di tutti, a Merkel, a Clinton, sono tante ancora le donne costrette a firmare le dimissioni in bianco perché appena sono in gravidanza, in dolce attesa, vengono non licenziate, ma improvvisamente non hanno più voglia di lavorare, stranamente, firmano le dimissioni, sono tanti gli ostacoli di conciliazione, lavoro, famiglia. Beh, intanto nel campo del lavoro devo rettificarti che non si possono firmare in bianco gli licenziamenti. Okay. Non so se lo sai, cioè da 2 anni c'è questa legge e questo non puoi farlo. Perché poi dopo deve andare dall'agenzia del lavoro, la persona di turno, e ratificare il proprio licenziamento. Rimangono tanti casi, tanti. Sì, sì. Io ne sento parlare tutti i giorni, non so, anche nella mia esperienza quotidiana di ostacoli vari. Ecco, non so cosa pensate voi. Ma magari il cristallo che non si sfonda, quindi quella è una realtà mondiale. È vero che ci saranno le donne in tanti settori, siamo anche numericamente tante, però in realtà c'è un tetto che difficilmente viene superato. Vero. Questa è una realtà. Ma non è che si possa superare con le quote rosa, dottoressa? No, io non ho detto quote rosa, c'è questo tetto di cristallo che non si riesce a sfondare. Quindi ci sono tantissime donne che fanno tante cose importanti, ma i vertici, tra i pochi casi, non sono ricoperti. Questo è un dato di fatto. Comunque in Italia, perché la Merkel è in Germania, sarà in Italia, quindi vuol dire che c'è ancora qualche difficoltà. Va bene, mi sa che il tema è molto ampio, dovremmo trovarci qui un'altra volta, semmai. Direi che finiamo con l'ultimo brano e prima lo ascoltiamo e poi facciamo la domanda. Shamash entrò nella coscienza collettiva diventando un fenomeno incredibile, mai visto prima. Nel suo nome furono compiuti omicidi e reati di ogni genere. Una scia insanguinata, incessante e senza sosta percorse l'Italia. Funzionari di banca, dirigenti di Equitalia, broker borsistici, psicologi, assistenti sociali, chirurgi, finanzieri, imprenditori, sindacalisti, avvocati, politici, magistrati, ufficiali giudiziari. Non ci fu categoria che non registrasse nelle sue file delle vittime del nome di Shamash. C'era un impazzimento generale. Nel nome di Shamash, assoluto icona di una giustizia fai da te, chi aveva o reputava di aver subito un torto considerato grave applicava la legge del taglione. A nulla valsero i richiami alla civiltà e all'osservanza della legge delle più alte cariche dello Stato. Un diffuso istinto forcaiolo pareva essersi impadronito delle persone, anche di quelle più miti, che mai prima uno avrebbe pensato poter diventare sanguinarie. Il capo dello Stato lanciò un messaggio e un monito a reti unificate a tutta la nazione, ricordando il valore supremo della democrazia e dell'ordinamento dello Stato, cercando così di contrastare la disubbidienza civile che ormai tracimava in manifestazione di autentica violenza singola e collettiva. Le misure di sicurezza furono rafforzate. La polizia, in tenuta antisommossa, faticava a tenere a bada i dimostranti. I dimostranti stavano facinorosi per la polizia, che sempre più numerosi sotto l'egida di Shamash manifestavano contro lo Stato per i motivi più diversi, dalle rivendicazioni salariali fino alle richieste di dimissioni del governo. Shamash pareva diventata la parola magica, la parola d'ordine dietro la quale ogni richiesta, ogni protesta, ogni rivendicazione, ogni violenza diventava plausibile e legittima. Shamash, nel nome di Shamash. Il fenomeno arrivò al punto da indurre le forze politiche di governo e di opposizione a coalizzarsi per promuovere delle variazioni alla legge costituzionale della Repubblica e dell'ordinamento giuridico. La fibrillazione nei partiti e la tensione politica salivano in modo direttamente proporzionale alle proteste montanti dell'opinione pubblica. Venne proclamato lo stato d'emergenza. L'ondata Shamash stava travolgendo la vita e i sentimenti del paese. Abbiamo ascoltato questa onda di rabbia sociale. Ecco, pensi, adesso ti chiedo, pensi davvero che da un evento così, non dico banale, perché l'accusa di pedofilia comunque sappiamo è un'accusa grave con tutti i suoi risvolti, ecco, ma da un evento singolo di una singola persona possa scatenarsi una rabbia sociale, una sommossa? No, io penso che sia una forzatura ovviamente romanzesca. Sicuramente però la storia ci insegna che spesso fattori casuali o comunque non di grandissima importanza determinano poi dopo un fattore causale incredibile, inaspettato. Se pensiamo ad esempio alla prima guerra mondiale, ci fu sì l'uccisione dell'arciduca Ferdinando, però nessuno pensava che potesse scatenare una guerra mondiale, a livello mondiale, che poi dopo ci fu la seconda guerra mondiale, che era sostanzialmente la conseguenza della prima, visto dopo i trattati Paris-Saint-Germain. In quel caso, ad esempio, la prima guerra mondiale, ci fu questa uccisione, poi dopo un mese, esattamente un mese dopo, ci fu la dichiarazione di guerra dell'Austria alla Serbia, e poi per tutti questi intrecci di alleanze, e la Russia prima e poi dopo la Germania eccetera, si dichiararono la guerra anche per una forma di predominio, perché all'epoca sapete benissimo c'era un po' una polveriera per le colonie, per diciamo i territori che andavano occupati. Peraltro non tutti lo sanno, tutti questi re, imperatori eccetera erano più o meno imparentati tra di loro. Io me lo sono perfino scritto su per sicurezza. La madre di Guglielmo II, imperatore della Germania, era la zia dell'imperatore Alessandra, la moglie dello zar Nicola, e la sorella di re Edoardo VII. La regina Vittoria del Regno Unito era sua nonna, cioè erano tutti un po' imparentati, tanto vero che quando c'erano delle occasioni di incontrarsi eccetera erano tutti amici, insomma, perché erano parenti. Peraltro lo stesso Guglielmo II parlava 5 lingue, aveva studiato in Francia, aveva studiato in Inghilterra, eppure vedete, da un fatto del genere, sicuramente criminoso, è successo ovviamente il finimondo. Quindi spesso dei fattori non considerati importanti possono scatenare, possono essere la classica goccia che fa traboccare il vaso di una situazione. E in Italia come ti sembra che sia la situazione? Questa rabbia che sembra essere nascosta, insomma. Io ogni tanto leggo dei commenti su social network che sono abbastanza da brivido. Sì, sì, sono pazzeschi. 2 mesi fa sono stato a Roma, il tassista mi ha detto: ah, finché l'italiano c'ha 50.000 lire in tasca e il calcio non succede niente. questo vox populi, vox populi. Però sicuramente quello che fa specie nella nostra società, e non soltanto la nostra, è la forbice che si allarga sempre di più tra ricchi e poveri, è il ceto medio che si sta impoverendo e si sta proletarizzando, diciamo così. E quindi sappiamo che passiamo tempi difficili, soprattutto dal punto di vista economico, che poi si verrebbe anche sul piano sociale, ovviamente. Ecco, adesso non so se abbiamo tempo di sentire un altro brano. No, io direi che sono le 7:15. Sì, ecco, se no abbiamo. Sì? Sì, sì. Questioni di carattere civile e politico, per carità, non solleviamo le spalle. No, mentre adesso mi dice, non ho capito il genere di questo romanzo, visto che più o meno, no? Tra la letteratura è divisa in generi, questo dovrebbe essere una sorta di giallo, thrill, sì, noir, sì. Sì, sì, lo è. Ma siccome lei fin dall'inizio ci ha detto che c'è un quest'uomo che è stato accusato, maltrattato dalla giustizia, sì, non sì. solo, ma da tutti quelli che sono gli apparati di carattere sociale relativamente a una sua presunta pedofilia, sì, sì, sì. Se l'assassino è lui, lei ce l'ha già detto e quindi ci fa un dispetto, nel senso che non sarà più interessante leggere il libro se già sappiamo chi è l'assassino. Ma commedia delle stragi. In realtà il thriller non è un vero giallo nel senso di giallo thriller, è un thriller psicologico. È un po' sulla falsa riga anche dei thriller legali che sono molto in voga, di cui ad esempio Gianenrico Carofiglio è uno degli esponenti più importanti. Quindi si sa già fin dall'inizio più o meno dove si va a parare, però è bello l'intreccio di tutti i coprotagonisti. Poi bisogna anche dire che prima vengono sospettati una serie di altri personaggi e poi si arriva all'omicida reale. Bene, io direi. No, ecco. Stato qua. Se ci sono altre domande? No, non penso. Io vorrei ringraziare. Ecco, va bene, allora ringraziamo i presenti, tutti. Io vorrei ringraziare innanzitutto la dottoressa Trevisan e il dottor Ferrarese, poi dopo chiaramente te Rosanna, le nostre voci narranti. E infine vorrei ringraziare anche il nostro sindaco che ha avuto il tempo, nonostante tutti gli oneri che ha, di venirsi a trovare. Ovviamente ringrazio anche il signor Moresco e la signora Moresco, che sono gli sponsor diciamo, del buffet che adesso andremo a gustare. Ed infine ovviamente saluto anche il mio editore Michelangelo e Baba, che mi supporta e mi sopporta, perché qualche volta sono tedioso, insomma, nella nostra attività, nella mia attività. Grazie. Thank you.